Primero que todo, buenas tardes. Gracias a todos y todas por venir aquí a la Anónima y a Tramayor. Okay, voy a hacer una breve presentación sobre el espacio y después voy a dar el paso a los compañeros y las compañeras. Entonces, yo soy miembro del colectivo La Anónima, que junto al colectivo del taller estamos organizando este evento de hoy. Entonces, básicamente nuestro espacio, La Anónima, este es un espacio que ya tiene unos 6 años, ¿okay? Y digamos que desde aquí hemos tratado de dar cabida a propuestas de distintos movimientos sociales, colectivos artísticos, novedades editoriales, música, conferencias, etcétera, buscando, digamos, propuestas que vengan de la base y propuestas que tengan un componente de emancipación. Pero bueno, igualmente no somos, digamos, solamente un colectivo que gestiona este espacio, que es parte de este espacio, ¿no? Sino que también buscamos hacer incidencia en lo que es la política y la política y la emancipación, la transformación, y buscamos trabajar de manera directa y próxima con distintos colectivos. Los que ya nos conocen habrán visto un poco lo que hacemos, y los que no, bueno, bienvenido. Esto que estamos haciendo hoy, esto es lo que una de conversaciones que teníamos en un proyecto de unas distintas aulas, ¿ok? Hace unos 3 meses, si mal no recuerdo, hicimos una obra con distintos colectivos feministas aquí de Sevilla, y de verdad que salieron cosas muy interesantes. Y bueno, y ahora estamos en parte de lo que es una obra antimilitarista, ¿no? Básicamente, un poco para describirlo de qué va el ágora, ¿no? Que, digamos, haya cierta coincidencia y consenso entre muchos sectores movilizados de la sociedad en la aceptación del diagnóstico de la crisis sistémica del capitalismo. Partiendo de esta afirmación, nos damos cuenta de que hace falta dar un paso más, salir del diagnóstico a secas y empezar a plantear a escenarios futuros, dando fuerza a las participaciones de los distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil para prepararnos, para incidir y, en la medida de las posibilidades, dirigir el proceso de transición del actual sistema en crisis a otros o varios sistemas que tenemos que empezar a intentar definir, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente con el ágora, ¿no? Digamos que queremos volver a recuperar estos espacios de participación, de democracia directa, de política de base, ¿ok? Y es una cuestión que al final tenemos que construir entre todos y todas, y estamos tratando de llegar al máximo de gente posible para que participen, para que se involucren, y para eso un poco lo que decía antes, para plantear escenarios y para plantear acciones. Así que bueno, ya para terminar, okay, le damos la bienvenida aquí a la Anónima. Okay, aquí es un espacio, me gusta llamar el espacio para la gente que no tiene espacio. Okay. Copiado de allá, de carajo. Bueno, tenemos ahí una lista, una hoja para que se anote, una lista de discusión. Y también tenemos redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y también tenemos una página web. Y nada, bueno, aquí darle el paso a Pablo, que es de La Anónima, uno de los compañeros de La Anónima, a Ana, que es del taller, y a Mauricio Lazarato, que es el que la empresa. Hola, buenas. Bueno, yo voy a presentar un poco la charla y voy a hacer una pequeña introducción al trabajo de Mauricio y a los temas de los que vamos a discutir hoy. Bueno, Mauricio Lazarato es sociólogo y filósofo, y hoy nos acompaña como parte de una serie de presentaciones. Se me oye bien, ¿no? Como parte de una serie de presentaciones que está haciendo en varias librerías y espacios autogestionados del Estado español, como parte de una iniciativa que, con el lema "Más libros en la guerra", se posicionan frente a la escalada bélica desatada tras la invasión de Ucrania, que es una de las cuestiones que van a entrar en la charla de hoy. Esta charla está además encuadrada, como ha dicho el compañero, en las ágoras que está organizando La Anónima. Concretamente, el ágora antimilitarista, además de esta charla, va a continuarse con otra charla con Raúl Sánchez Cedillo en septiembre, y también con una mesa de discusión con movimientos sociales sobre cuestiones antimilitaristas. El taller, por su parte, para los que no lo conozcáis, es un espacio autogestionado de reflexión y de formación que se mueve entre distintos espacios de los movimientos sociales de Sevilla y que trata de tejer redes de colaboración y de discusión y de intercambio de saberes entre esos movimientos y entiende la teoría como una herramienta al servicio de las luchas y no a la inversa. El taller se hace con tiempo militante gratuito de los que colaboramos y lo que sí tenemos es una caja de aportaciones voluntarias que la tiene ahí Luis, Luis de la Fuga allí en la mesa junto con los libros de Mauricio Lazzarato, por si alguien quiere comprar algún libro o contribuir, pues ahí lo tenéis luego. Y bueno, os cuento un poco que para los que no lo conozcáis, que imagino que si estáis aquí porque ya sabéis quién es Mauricio, pero bueno, él es, como decía, sociólogo y filósofo, es italiano pero reside en Francia desde comienzos de los 80, se fue allí inicialmente a raíz de como un exilio, a raíz de la represión de la lucha italiana metropolitana de los 70, fue militante en la órbita del autonomismo italiano. Y en esa clave de militancia ha desarrollado su reflexión y su escritura, que tras la crisis de 2008 ha sido especialmente relevante en el marco de los movimientos sociales, por una parte por su trabajo sobre la deuda y sobre las condiciones políticas de las crisis, y por otra parte por estas cuestiones que vamos a tratar hoy y que viene desarrollando en los últimos años en libros como Guerras y Capital, que escribió en colaboración con un filósofo francés, Éric Alliet, en 2016. El Capital odia a todo el mundo, de 2019. ¿Te acuerdas de la Revolución, de 2022? Guerra o Revolución, también de 2022. O el último que ha escrito, el más reciente, el imperialismo del dólar, crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria, que se publicó hace poco en Italia y también en Argentina, en Vitalimón. En estos textos él viene remarcando, entre otras cosas, la relevancia y la vigencia de categorías como imperialismo, como guerra y revolución, que si bien han sido abandonadas por muchos teóricos y movimientos en los últimos tiempos, él considera que siguen siendo cruciales hoy más que nunca para poder entender e intervenir en el presente. En Guerras y Capital se profundizaba concretamente en el carácter inescindible de esas dos nociones, de esos dos conceptos, Guerras y Capital, la guerra como indisociable del capitalismo desde su origen, arremetiendo así contra una serie de premisas del pensamiento liberal que de alguna manera siguen permeando el pensamiento político hegemónico. La historia del capitalismo aparece ahí como un continuo bélico, no solo de una serie de guerras en particular tal como las podemos entender desde la historiografía convencional, como algo que tiene principio y fin, sino también como una guerra múltiple y constante que incluye la guerra de clases, de razas, de sexos y de subjetividades, las guerras neocoloniales y todas sus variantes. Las guerras totales de principios del siglo XX y hasta las guerras fractales, como las llaman ellos, de principios del XXI. Una continuidad que fundaría el orden interno y externo de las sociedades y que permite elaborar en ese libro una contrahistoria de la relación entre Estado y capital como entidades indisolubles. En el imperialismo del dólar, crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria, que es su libro más reciente, esas reflexiones sobre la guerra se entretejen con otra serie de hipótesis y voy a mencionar algunas que sirvan un poco como introducción a la conversación. Después Mauricio va a hacer una presentación de unos 20 minutos y después vamos a abrir la palabra a preguntas pues para poder discutir estas cuestiones. En el imperialismo del dólar pues se insiste en que la guerra y todas sus variantes son el régimen de verdad en el que se instaura el capitalismo. Y que desde finales del XIX el capitalismo se ha convertido en un imperialismo, es decir, en una combinación de moneda y guerra. Un imperialismo que hoy es monetario y financiero y que extiende el derecho soberano de dar la vida y quitarla, de vida y muerte, a todo el planeta. El imperialismo estadounidense inauguraría no solo la hegemonía del dólar, sino también una economía de la deuda, que es otra de las cuestiones que Mauricio ha trabajado mucho, que es fundamental el modelo de acumulación de la mundialización. Y este sistema estaría puesto en discusión con la guerra de Ucrania, que entiendo que es una de las cuestiones en las que hoy se va a detener. Por otra parte, otra hipótesis relevante en este libro es que el capitalismo no puede identificarse con el neoliberalismo y que el neoliberalismo no sería más que una serie de dispositivos de gestión temporaria y parcial que sería un error confundir con el capitalismo, pero que se han confundido repetidamente en tanto teórica como estratégicamente. El capitalismo habría prescindido de la gubernamentalidad neoliberal ya, como lo había hecho un siglo antes con el liberalismo clásico, y en ese puesto habría colocado a los populismos, a los neofascismos y, en última instancia, a la guerra. Y los principios del imperialismo del dólar serían, de hecho, contrarios a los del neoliberalismo. El imperialismo se constituiría como una encrucijada de una triple centralización del poder en muy pocas manos, económica del lado de los monopolios y oligopolios, tanto industriales como de moneda, política, cuando el poder ejecutivo repetidamente desbanca el legislativo, y militar. Y eso haría que el mercado, tal como se ha entendido, la competencia o la libre empresa se conviertan en entidades insignificantes en relación con las estrategias de los grandes grupos multinacionales, fondos de inversión y también de los grandes estados, que imponen relaciones de fuerza combinando guerra económica, guerra tecnológica, monetaria y enfrentamiento armado, la guerra violenta tal como entendemos más convencionalmente la noción de guerra. El capitalismo siempre habría establecido además una jerarquía en la que la gubernamentalidad se subordina a la acumulación infinita, es decir, el neoliberalismo es solo una herramienta que se subordina a la acumulación capitalista. La financiarización, las privatizaciones, la precarización, el neocolonialismo, el racismo, el sexismo serían políticas imperialistas y del imperialismo que el neoliberalismo solo gestionaría por un corto periodo y que se deja de lado cuando es necesario otras operaciones, en este caso cuando son necesarias más centralizaciones para las guerras, que ya no tienen la naturaleza explosiva del siglo XX porque los instrumentos económicos para aplazar la confrontación son hoy más sofisticados, pero también porque ya no hay un enemigo de la naturaleza que lo había antes para el capitalismo, es decir, que no hay ningún movimiento que amenace realmente la máquina capitalista. La guerra actual no es local, sino un enfrentamiento entre imperialismos por un nuevo reparto del poder en el mercado mundial, y su principal causa sería el debilitamiento de las economías occidentales y de sus monopolios. Hoy en día la gran supremacía de Occidente ya solo existe en términos del ejército y de la producción de armas, pero en el corazón del conflicto actual sería el sistema monetario basado en el dólar el que se ubica, y todo intento de liberarse de la dependencia del dólar se considera como una declaración de guerra inmediata contra los Estados Unidos. Europa, como colonia norteamericana, también estaría en guerra con Rusia, pero sobre todo estaría en guerra contra sí misma, en la medida en que está al servicio de los norteamericanos, cuyo objetivo, entre otros, es reducir la economía europea a un estancamiento permanente, como es el de la japonesa. Los dos únicos límites verdaderos del capitalismo serían la guerra y la revolución, no conocemos otro. Solo la revolución lograría limitar al capitalismo imperialismo por un periodo de tiempo corto, neutralizando su principal arma, las finanzas, y permitiendo el desarrollo de derechos sociales, económicos y políticos. Y ahí estaría el punto en el que Mauricio propone que repensemos la noción de revolución. El imperialismo del dólar no solo estaría en el origen de la crisis del 2008, sino también de las insurrecciones que surgen a partir de 2011, y la cuestión sería que, en parte por el anatema contra la negación que ha venido de las teorías de los años 60 y 70, y en parte por esa descatalogación de la noción de revolución, estos movimientos sociales no se han seguido pudiendo pensar en clave revolucionaria. Por otra parte, la idea de que ya no hay una fuera del capitalismo que habían anunciado Negri y Hart contrasta con la percepción que señala Mauricio de que el imperialismo está crujiendo por todos lados, de que se van abriendo brechas flagrantes en su dominación y en su control, de que se manifiestan rupturas de todo tipo, insurrecciones, revueltas, guerras civiles, guerras entre estados, El problema es que el afuera no está ya dado, es que está sobreviniendo, que está sucediendo y la vía de escape debe ser creada. Y ese es un poco el lugar que le corresponde al pensamiento político y a la estrategia contemporánea tal como lo piensa Mauricio. Y nada, sin más le dejo. Io parlo in italiano e lui traduce più o meno, più o meno. Allora, buonasera, grazie per l'invito e grazie di essere qui. Buonasera, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Allora, io dirò qualche cosa sulla guerra, perché molte cose le ha dette lei. Que va a hablar un poco sobre la guerra porque la mayor, una parte importante la ha dicho ella. E dunque, quando abbiamo scritto con Erika Liesi Guerra e Capital, era il 2016 è uscito. Ha salito nel 2016 il testo che ha scritto con Erika Liesi. Che era un testo abbastanza teorico. Un testo abbastanza teorico. Però che prevedeva che la guerra ci sarebbe stata. Che preveia che la guerra iba a acontecer. Non ha suscitato nessun dibattito perché la gente si domandava perché parlare della guerra quando la guerra non c'era. Che non ha suscitato nessun debate perché la gente non si preguntava perché iba a acontecer quando non stava acontecendo. Dunque la guerra è arrivata 7 anni dopo e quindi poi ho scritto altri 2 piccoli libri per cercare di cogliere invece questo tipo, la specificità della guerra. Que 7 años después efectivamente aconteció la guerra y entonces ha escrito 2 libros adicionales sobre esta temática. Allora, dirò 2 o 3 cose sulla questa congiuntura di guerra in Ucraina. Que va a hablar un poco de la coyuntura de la guerra de Ucrania en particular. Allora, la situazione è molto simile, nello stesso tempo molto differente della prima guerra mondiale. Que es a la vez muy parecida y muy diferente de la Primera Guerra Mundial. Le ragioni della Prima Guerra Mondiale sono uno scontro tra imperialismi europei. Que una de las razones principales es un encuentro entre los diferentes imperialismos europeos. Perché c'era l'egemonia dell'impero inglese, dell'impero francese e la Germania che era una potenza emergente. Stava la egemonia inglesa, la egemonia francesa e la egemonia alemana stava emergendo. L'oggetto di questa guerra era il sud, era come dividersi le colonie. L'oggetto basico di questa guerra era come dividersi le colonie, come dividersi il sud. Lenin diceva che le ragioni della guerra era come dividersi gli schiavi. Lenin diceva che la ragione della guerra era come dividersi gli schiavi. Quello che succede adesso è molto simile ma anche differente. Lo che occorre ora è abbastanza similare e alla vez abbastanza differente. Perché è quello che è cambiato radicalmente è il rapporto tra nord e sud. Che lo che ha cambiato basicamente è il rapporto, la relazione tra il nord e il sud. Il sud globale, che era l'oggetto dell'appropriazione, è diventato un soggetto economico e politico. El sur, que era el objeto de a ver, repite la frase, perdón. Era l'oggetto dell'appropriazione da parte del nord. El sur era el objeto de la apropiación por parte del norte y ahora ha devenido un sujeto político. Grazie alle rivoluzioni anticoloniali. Gracias a las revoluciones anticoloniales. Le rivoluzioni che erano rivoluzioni socialiste e nazionaliste sono finite, esaurite. Sí, las revoluciones socialistas y descoloniales han desaparecido, han acabado. Ma hanno cambiato comunque il rapporto di forza. Sí, pero han cambiado la relación de fuerzas. E oggi il problema è che il sud non vuole essere subordinato alle politiche occidentali. Claro. Lo que pasa es que hoy en día el sur no quiere ser subordinado a las políticas del nord. L'esemplificazione di questo conflitto è sono gli Stati Uniti e la Cina. L'esempio basico è la relazione che esiste tra Stati Uniti e Cina. Perché il vero obiettivo, come tutti avranno capito, non è la Russia, ma è la Cina. E come possiamo intendere, l'obiettivo primario non è Russia, sino che è Cina. Per perché gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale rappresentavano il 50% della produzione mondiale. Perché Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale rappresentava il 50% della produzione mondiale. Oggi hanno perso moltissimo. Sì, oggi ha perduto moltissimo di ese percentuale. Ma soprattutto il sistema di dominio degli Stati Uniti si è costruito dopo la seconda guerra mondiale sul dollaro. Que el sistema de dominación de Estados Unidos se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre el dominio del dólar. O sea, una forma de dominio que no es la forma clásica de ocupación territorial. No es una forma de dominio clásica como la ocupación territorial. Ma a través del sistema financiero y monetario. Claro, pero ocurre sobre el sistema financiero y monetario. Allora lo spiego molto semplicemente e poi se qualcuno interessa bisogna leggere il libro. Te lo spiega semplicemente e che no hai dei libri. Perché sennò è troppo complicato e perdiamo troppo tempo. Allora prendiamo la mondializzazione si è costruita nel rapporto Cina-Stati Uniti. Sì, la mondializzazione si è costruita entre la relazione di Stati Uniti e Cina. La Cina produceva dei beni a basso prezzo che vendeva agli Stati Uniti. Claro, Cina fabricava bienes a bajo precio. Che vendeva agli Stati Uniti? Che vendía a Estados Unidos. Gli Stati Uniti pagavano in dollari. Claro, Estados Unidos pagaba en dólares. La banca centrale cinese aveva una montagna di dollari. La banca central china tenía una montaña de dólares. Che non poteva, però, che la sola cosa che poteva fare era reinvestirli nel debito degli Stati Uniti. Che lo único che poteva fare con ello è reinvertirlo nella deuda degli Stati Uniti. Perché nel 1971 gli Stati Uniti hanno dichiarato l'inconvertibilità del dollaro in oro. Perché nel 71 gli Stati Uniti estableció la inconvertibilità del dollaro in altre divise. Cioè praticamente la Cina, ma non solo la Cina, tutto il mondo finanzia il debito degli Stati Uniti. Básicamente, non solamente Cina, sino il mondo intero finanzia la deuda degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno il debito più grande del mondo, 400% del prodotto nazionale lordo. Gli Stati Uniti hanno la deuda più grande del mondo con il 400% del prodotto interior bruto. Che esistono solo perché c'è continuamente questo finanziamento che viene dagli altri paesi. Tutti, il resto del mondo è creditore, gli Stati Uniti sono debitori. Che solamente sobrevive grazie a che il resto del mondo tiene che reinvertire in esa deuda costantemente. Quindi dopo la crisi del 2008 questo meccanismo è entrato in crisi. Después del 2008 este mecanismo ha entrato in crisi. Soprattutto perché la Cina si è resa conto che era pericoloso restare dentro questa dinamica. Sobre todo porque China se ha dado cuenta de que era peligroso mantener esta dinámica. Cioè, el dólar es, nello stesso tempo, la moneta de Estados Unidos y la moneta en cui si fanno tutti gli scambi internazionali. Precisamente porque la moneda del dólar era la moneda en la que se hacían todos los intercambios monetarios a nivel mundial. En lo stesso tempo, moneta nacional. Y al mismo tiempo, era moneda nacional. Por cui, gli Stati Uniti controllano i tassi di interesse e controllano il mondo. Claro. Entonces Estados Unidos controla no solamente su propia tasa de interés, sino también controla el mundo. Y la China ha cominciato a cercar de dolarizzarsi, de uscire del sistema del dólaro, a partir del 2008. Y desde el 2008 China ha intentado desdolarizar su economía, ¿no? Desconectarse. Ma non solo la Cina, anche la Russia, il Pakistan, molti paesi del sud. Claro, muchos países del sur, no solamente China ha intentado esta estrategia. E ultimamente Lula, quando è stato eletto, ha detto la prima proposta che ha fatto era una moneta per gli scambi nel Sud America che si chiama SUR. Che incluso Lula, durante il suo governo, propuso este processo di desdolarizzazione creando una moneta per l'intercambio dentro del Sur, che si chiamava la moneta comune che si chiamava SUR. Perché attraverso il dollaro gli Stati Uniti catturano la ricchezza mondiale. Porque es que a través del dólar Estados Unidos controla la riqueza mundial. E quindi questi tentativi di uscire dal dollaro sono praticamente una dichiarazione di guerra contro gli Stati Uniti. Por lo tanto, prácticamente esta salida del dólar se presenta como una guerra contra Estados Unidos. Gli Stati Uniti sono in un declino relativo. Che Stati Uniti stanno in un declino relativo. Ma se questo sistema, questo sottrarsi dal dollaro funziona, il declino diventa assoluto. Claro, pero esta caída, o sea, si de verdad se puede llegar a realizar esta desconexión del dólar, la caída será absoluta. Quindi la vera ragione della guerra è questa, Questa è la vera ragione della guerra. E il problema è la Cina. Claro, il problema è Cina. E tutto il sud. E il sud. Non c'è niente di rivoluzionario in questo, perché la Cina non è un paese, è un paese capitalista. Che non è nada rivoluzionario in questo perché Cina è capitalista igualmente. Ma questa situazione ha creato delle conflittualità tra imperialismi. Claro, pero esto, sin embargo, ha creato una conflittualità entre una conflittività entre imperialismi. Imperialismo americano, che è un imperialismo globale intorno al dollaro. Sì, il nordamericano, che è un imperialismo globale intorno al dollaro. L'imperialismo russo, che è un imperialismo locale, regionale. Sì, l'imperialismo russo, che ha un carattere più locale. E l'imperialismo cinese che non riesce a diventare globale. E l'imperialismo cino che non llega a conseguire a farsi globale. Allora, la guerra ha questa ragione, ma in realtà la guerra è, diciamo così, fa parte integrante dei meccanismi del capitalismo. Claro, la guerra si introduce qui come un meccanismo basico del capitalismo. In un secolo, praticamente dal 1914 al 22, l'anno scorso, un secolo e qualche anno, ci sono state quattro guerre che hanno portato l'umanità sul bordo dell'abisso. Che durante l'ultimo secolo, praticamente, hasta 2022, hanno ocurrito quattro guerre che hanno portato all'abismo a este... Si è portato l'umanità sul limite della scomparsa. Ha llevado a la humanidad hasta el límite, ¿no? Casi hasta el final de los tiempos. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda e questa. La prima, la seconda guerra mondiale, la guerra fría y la actual. Guerra fredda è una guerra importante perché per la prima volta si è concretizzata la possibilità dell'estinzione dell'umanità con le bombe atomiche. Claro. La guerra fría ha sido la prima vez en donde se ha podido llegar a materializar la extinción de la humanidad a través de la guerra atómica, ¿no? Quindi la guerra non è un accidente, qualcosa che arriva così, Fa parte della struttura del capitalismo. Claro. Por lo tanto podemos entender que la guerra no es un acontecimiento fortuito, sino que forma parte del funcionamiento del capital. Cosa che in realtà si sapeva già all'inizio del XX secolo, c'era stato un dibattito molto forte sul rapporto guerra-stato e capitale. Que esto ya se sabía al principio del siglo XX porque hubo un debate en torno a la relación entre el Estado, la guerra y el capital. Que pero se ha dimenticado. Pero que se ha olvidado. Cioè que el capitalismo ha una tendencia a diventare mercado mundial. Que el capitalismo tiene una tendencia hacia hacerse un mercado mundial. Ma que no podrá mai realizarla. Pero que no podrá realizarse nunca. Perché il capitale è legato sempre a uno Stato che non è uno Stato, che non può essere uno Stato mondiale, è sempre uno Stato nazionale. Perché la guerra sempre sta vinculata. Perché il capitale. Il capitale sta sempre vinculato a un Stato che nunca potrà essere un Stato mondiale. E quindi prima o poi ci sarà una contraddizione tra imperi, tra Stati. E che, per lo tanto, tardi o temprano sempre acconterà un conflitto entre imperialismo. Questa cosa Lenin e Rosa Luxemburg l'avevano già detta e non è niente di nuovo. Sì, Lenin e Rosa Luxemburg debattono su questo. Ma non l'ho inventata io. Che non l'ha inventato lei. Però ci siamo. La guerra è stata rimossa dal dibattito politico. Perdona. La guerra è stata rimossa. Rimossa. Rimossa. Quitado. Sì, che la guerra si è quitata dal dibattito. Invece adesso bisogna reintrodurla. Sì. Que es necesario reintroducirla porque cambia molte categorie politiche e economiche. Porque cambia muchas categorías políticas y económicas. E efectivamente, cuando la guerra è arrivata, tutti sono stati sorpresi. Claro, cuando ha llegado la guerra, todo el mundo estaba bastante sorprendido. E no, non avevamo elaborato una teoria adeguata a quello che stava succedendo. Che non abbiamo elaborato una teoria adeguata a quello che stava succedendo. Abbiamo dato un'immagine del capitalismo un po' pacificata. Hemos dado una imagen del capitalismo algo pacificada. Adesso vorrei dire qualcosa ancora su questa guerra rispetto all'Europa, perché mi sembra importante. Che va a decir algunos apuntes sobre esta guerra en relación con Europa. Sì. Questa, la guerra in Ucraina contiene in sé molte guerre. La guerra in Ucraina contiene in sé molte guerre. Una delle più importanti che gli Stati Uniti stanno facendo è contro l'Europa. Una delle più importanti è la che hace Stati Uniti contro l'Europa. Gli Stati Uniti sono riusciti praticamente a cambiare il gruppo di paesi che dirige l'Europa. Estados Unidos está empeñado en cambiar quiénes están dirigiendo Europa, qué países dirigen Europa. Cioè, no, l'asse franco-tedesco que aveva diretto l'Europa da sempre è stato praticamente messo da parte. Claro, el eje franco-alemán que ha dirigido Europa en los últimos años lo está quitando de en medio, ¿no? E al centro ha messo la Polonia, gli stati baltici, gli stati dell'est. Y en el centro ha puesto a la Polonia, a los estados de bálticos y a los estados del este. Y c'è un rapporto diretto tra Stati Uniti, Gran Bretaña y Polonia. Y hay una relación directa entre Polonia, Estados Unidos y Reino Unido. Quindi l'Europa, diciamo, la guerra non è finita, ma la prima sconfitta l'ha subita l'Europa in realtà. La prima che ha perso. La prima che ha perdido ha sido l'Europa. L'Europa. L'Europa e soprattutto la Germania, cioè quello che gli Stati Uniti volevano era bloccare la Germania. Lo che quería principalmente Estados Unidos era bloquear Alemania. E il sabotaggio del gasdotto Stream 2 è chiarissimo. Claro, el sabotaje del gasoducto Stream 2 ha sido práctico, o sea, ha sido claro en este sentido. La Germania aveva sviluppato dagli anni 70 l'Ostpolitik, politica verso l'est, sí. Verso la Russia, verso la Cina. Che Alemania, no? Sì. Alemania aveva sviluppato su politica exterior hacia China y hacia Rusia, hacia el este. E adesso gli Stati Uniti ha detto che questo commercio è bloccato. Y Estados Unidos ha bloqueado esta línea de apertura del comercio, ¿no? Esta línea de comercio. Y como sapete, l'Europa un año dopo è oficialmente in recessione da due trimestri. Y como sabéis, la Europa está en recesión desde hace dos trimestres. El país con la più grande recessione, ¿cuál es? Punto de domanda, la Germania. El país con mayor recesión de toda Europa es Alemania. Praticamente è un altro suicidio il secondo suicidio delle élite europee. Praticamente è il secondo suicidio delle élite europee. Il primo è durante la prima e la seconda guerra mondiale. Il primo fu durante la prima e la seconda guerra mondiale. Ma il secondo è questo qua. Però il secondo è questo che acontece ora. Nel senso che si sono completamente allineati sulle posizioni americane. Nel senso che stanno totalmente allineati con la posizione nordamericana. E hanno accettato le politiche che vanno verso la costruzione di economie di guerra. Y han aceptado este cambio hacia construir economías de guerra. Tutti gli stati europei hanno accettato di aumentare di molto il budget per militare. Todos los países europeos han aceptado incrementar los presupuestos estatales hacia la maquinaria militar. Soprattutto la Germania. Sobre todo Alemania. E questo ridurrà di proporzionalmente le spese sociali. Y esto por fuerza reduce el gasto social de los presupuestos. Questa è un'altra cosa che non si dice mai, la funzione assolutamente fondamentale nel capitalismo dell'industria bellica. Esto es una cosa que no se suele decir nunca, que es la función que tiene la maquinaria de guerra nel capitalismo. En el capitalismo. Il capitalismo ha una tendenza alla stagnazione. stagnazione, come sì, al estancamiento. El capitalismo tiene una hay una tendencia en el capitalismo hacia la estancamiento. Que lo he dicho ahora y se me olvidó. Hacia el estancamiento. Una tendencia secolare, no nuova. Una tendencia secular, no es algo nuevo. E il meccanismo che lo fa uscire da questa stagnazione sono due fondamentalmente. Que los mecanismos por los cuales sale de esta de este estancamiento son dos principalmente. È la spesa pubblica, ma sia in armamenti che la spesa pubblica sociale. Es el gasto público, sea en gasto militar o en gasto social. Attraverso il debito, A través de la deuda. Senza questa industria militare il capitalismo stagnerebbe. Sin esta deuda militar, sin este gasto militar, el capitalismo muere. E dunque, diciamo così, quello che sta succedendo oggi è non solo una guerra tra stati che si sta sviluppando. Lo che ocurre oggi non sono solamente una guerra entre stati che si stanno sviluppando. Ma anche una polarizzazione interna a ogni paese, sino incluso una polarizzazione interna in cada uno de los países. Qualcosa che si avvicina a una specie di scontro tra classi sociali all'interno di ogni paese. Algo che si avvicina o che si assemeja a una guerra di classi dentro de los países. Perché aumento delle spese militari, diminuzione delle spese sociali e l'inflazione che è arrivata adesso. Sì, perché claro, l'incremento del gasto militare, la riduzione del gasto pubblico e encima l'inflazione che acaba di arrivare ora. L'inflazione che non ha nessun rapporto con i salari, ma con i monopoli. Che non tiene nada que ver con los salarios, sino con los monopolios. Quindi la situazione che si delinea è una situazione di incertezza e di instabilità che durerà parecchio. Sì, aquello che acontece, che viene succedendo, è che... Una situazione di instabilità e di incertezza che durerà molto. Una situazione di instabilità e di falta di certezza, di incertidumbre, che durerà bastante tempo. Sì, perché la Cina non riesce a sostituire gli Stati Uniti. Perché China non logra sostituire gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti non riusciranno a battere la Cina nel sud. E dall'altro lato gli Stati Uniti tampoco potrà combattere contro la Cina nel sud. Quindi ci sarà questa situazione di instabilità prolungata. Por lo tanto si producirà questa instabilità prolungata. Soprattutto in Europa. Soprattutto in Europa. Perché l'Europa e gli Stati Uniti stanno armando l'estrema destra nell'est. Perché non ci olvidiamo che Stati Uniti sta armando alla estrema destra nell'est. Perché la Polonia è un paese fortemente reazionario, come tutti sanno. Perché Polonia, come tutto il mondo sa, è un paese fortemente reazionario. In realtà l'Europa federale non è più possibile. In realtà l'Europa federale non è possibile. Ma neanche più l'Europa delle nazioni. Ni l'Europa delle nazioni. Ma ci sarà l'Europa dei nazionalismi. Però sarà l'Europa dei nazionalismi. L'Europa della destra, dell'estrema destra. L'Europa della estrema destra. Si stanno organizzando, stanno arrivando al potere in diversi posti, tra cui l'Italia e tra un po' anche in Spagna. Que están llegando a puestos de poder en varios países, entre ellos en Italia, y aquí dentro de poco llegarán. Y c'è questo rapporto que la destra europea clásica está haciendo con la destra dell'est. Y existe esta relación entre la Europa, o sea, la derecha, las derechas europeas y las derechas de los países del este. Quindi questa situazione di instabilità si prolungherà. Que esta situación de inestabilidad se prolongará. ¿Continúo o me fermo? Con lo que voy. lo sé. Secondo me, puoi, si puoi andare, puoi andare. Con un po'. Come ti sei? No, per me posso parlare, sì. 5 minuti. 5 minuti, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, sul... su perché, fondamentalmente perché c'è stato questo ritardo nel problematizzare la questione, per teorizzare la questione della guerra. No, perché ha assistito a questo problema alla ora di teorizzare il problema della guerra? Perché è un limite nell'analisi del capitalismo. Perché è un limite nell'analisi del capitalismo. Il grosso problema di tutte le teorie degli anni 70, 80, 90 e anche le teorie da cui vengo io, la tradizione da cui vengo io, secondo me hanno un limite nell'analisi del capitalismo. Che tutta la teoria dei 70, 80, 90, incluso della corrente della che procede él, hanno tenuto un problema a la hora di teorizzare intorno alla guerra. Per esempio eliminando la categoria di imperialismo. Eliminando la categoria di imperialismo. Un libro che ha avuto molto successo, Impero, il libro di Negri e Hart, che ha avuto successo planetario, aveva come obiettivo di sostituire la categoria di imperialismo con la categoria di impero. Un libro che ha sido muy difundido nel mondo entero, che è il libro di Imperio, di Hart y Negri, proponía, entre otras cosas, sustituir la categoría de imperialismo por el de imperio. Impero sarebbe stata una struttura sovranazionale in cui gli stati sarebbero state delle componenti di questa struttura sovranazionale. El imperio sería esta estructura supranacional en donde los estados sarebbero stati delle componenti di questa struttura. En donde los estados serían los componentes de esta supraestructura. In realtà questo impero non è mai nato, non si è mai sviluppato. En realidad este imperio nunca se ha llegado a desarrollar, nunca se ha implementado. E questo ci ha impedito di cogliere altri aspetti del capitalismo che invece erano presenti nell'analisi della prima metà del XX secolo. Y sin embargo esto ha quitado del debate, ha quitado de la conceptualización el componente de la guerra que sí que se hablaba al principio del siglo XX. Se per esempio prendiamo l'analisi del capitalismo che fa Lenin. Si cogemos a Lenin y su análisis del capitalismo. Allora, dico subito, io non sono leninista, perché poi quando parlo di Lenin dico sempre, non sono leninista. Che non è leninista, vaya dicho que no es leninista. Ma l'analisi che fa del capitalismo è molto interessante ancora. Pero aún hoy en día el análisis que hace del capitalismo es muy interesante, es muy importante. La riassumo in quattro elementi. Lo va a resumir en cuatro elementos. Che assomigliano molto al capitalismo attuale. Che si parece molto al capitalismo attuale. Anche se un po' differente. Anche un po' differente. Allora, la prima caratteristica è che il capitalismo egemonico alla fine all'inizio del XX secolo era il capitale finanziario, come adesso. Che il primo elemento è che, incluso al principio del siglo XX, il capitalismo egemonico era il capitalismo finanziario come oggi in dia. E quello che era centrale era la rendita, non il profitto. Y aquello que era central era la rentabilidad, no el beneficio. La rentabilidad no, la renta. Esta renta era sobre todo renta colonial. Y sobre todo la renta, esta renta era sobre todo renta colonial. Quello che è cambiato, e quindi il problema della la seconda caratteristica è questa della colonizzazione. Que aquello ha cambiado es esta segunda característica que era la de la colonización. Que hoy no c'è più questa colonizzazione come ho detto prima. Que como ha dicho antes ya no existe esta colonización. Es un nuevo tipo de colonialismo que pasa attraverso il. Que realmente es un nuevo tipo de colonialismo que pasa a través de. Attraverso la finanza e la moneta. Que a través de la finanza y de la moneda. La terza cosa era la concentrazione del capitale, i monopoli. Il terzo elemento, il terzo aspetto è la concentrazione dei monopoli, la concentrazione del capitale. Che sono diversi, come ha detto lei prima, ci sono diversi tipi di centralizzazione del potere. Che sono, come ha detto Anna antes, hay diversos tipos de concentración del poder. Concentrazione del potere economico, i monopoli. La concentrazione del potere economico, il monopolio. La concentrazione del potere esecutivo. La del poder ejecutivo. Che elimina il potere legislativo. Che elimina il potere legislativo. E che distrugge la democrazia, come sta succedendo. E che distrugge la democrazia, come sta succedendo. E la concentrazione del potere militare. E la concentrazione del potere militare. Con la professionalizzazione dell'esercito. Con la professionalizzazione dell'esercito. E il quarto elemento che questo, questi elementi, poi ritorno su questi tre elementi. Il quarto elemento è la guerra. Il quarto elemento è la guerra. E questo cambio avviene, c'è un cambiamento tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo in cui la guerra diventa un elemento costitutivo del capitale. Che hay un cambio desde final del siglo XIX hasta principio del siglo XX, entre final del siglo XIX y principio del siglo XX, que es un cambiamento. Un cambio que es la costruzione della guerra come un elemento intrinseco. Sì. Che non era così evidente in Marx. Che non era così evidente in Marx. Che non era tan evidente la teorizzazione di Marx. Sì? Su questa cosa della guerra, devo dire, della prima guerra mondiale, devo dire una cosa particolare. Perché tiene che dire algo sulla prima guerra mondiale particolare? Che durante la prima guerra mondiale si produce un'identità tra produzione e distruzione. Che durante la prima guerra mondiale si produce una identità entre la produzione e la distruzione. Sapete che la prima guerra mondiale è caratterizzata dal fatto che tutta la società lavorava per la guerra. Che, bueno, hay un hecho fundamental, che è che durante la prima guerra mondiale tutta la società producía hacia la guerra, ¿no? Ci sono stati i livelli di produttività sono molto aumentati. Che il livello di produttività ha aumentato molto. Le ricerche scientifiche sono diventate molto importanti. La investigación científica ha diventato molto importante. La maggior parte della tecnologia che conosciamo noi viene dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. La maggior parte della tecnologia che conosciamo oggi in dia viene dalla prima guerra mondiale. Ma questa alta produttività era finalizzata alla distruzione. Per questa alta produttività tenia por fin la distruzione. Quindi la società, la scienza, la tecnica mobilizzata per la distruzione. Por lo tanto la società, la scienza e la tecnica stava orientata hacia la distruzione. A questo processo di identità tra produzione e distruzione non si è mai fermato. Che questa igualtà o questa relazione che esiste tra la produzione, no? La produttività o la produzione? La produzione e la distruzione? La produzione e la distruzione non si è eliminata, no? Questa relazione nunca si è eliminata. Ed è questa l'origine del problema ecologico, è in questo rapporto. E il principale componente che tiene a che vedere con la problematica ecologica viene da questa relazione. E questo è un altro elemento che si aggiunge all'instabilità della guerra tra stati. E questo è un altro elemento adicionale che si introduce in questa guerra tra stati. Allora, dico l'ultima cosa, poi mi fermo, se no vi stanco troppo. Sì, per favore. Anche lui. Va a dire l'ultima cosa e già para. Su questa cosa dei monopoli, che è molto importante. Questo processo di concentrazione del potere economico, politico e militare non si è mai fermato. Questo processo di concentrazione economico, politico e militare non si è parato nunca. Anzi, è aumentato in maniera progressiva. De hecho, ha aumentato in maniera progressiva. E il massimo della concentrazione si è raggiunto durante il neoliberalismo. Il massimo della concentrazione si è conseguito durante il neoliberalismo. Questo aspetto non è stato colto, per esempio, da Michel Foucault, quando fa l'analisi del neoliberalismo, non coglie questo aspetto, proprio non c'è. Questo, per esempio, Foucault non lo considera in sua analisi, non sta. E abbiamo accettato questa teorizzazione sulla governamentalità come se corrispondesse alla verità. Y hemos aceptado esta conceptualización de la gobernabilidad, la traducción. Gubernamentalidad. La gubernamentalidad de Foucault como si no existiera. ¿No? Per darvi un esempio, negli Stati Uniti l'80% delle azioni sono possedute dal 2% della popolazione. El 80% de las acciones en Estados Unidos pertenecen al 2% de la población. Questo il potere nei prodotti finanziari. E ahí está el poder de los productos financieros. E questa concentrazione del potere è una delle ragioni che portano alla guerra. y esta concentración de poder es uno de los elementos que empujan hacia la guerra. Dunque, voilà, ci sono molti problemi politici e teorici che questa guerra pone e bisognerebbe lavorarci molto per cercare di trovare la maniera con cui intervenire. Entonces hay muchos elementos políticos y sociales introducidos en esto de la guerra que necesitamos elaborar para poder analizar bien. Mi fermo qua, avrei altre cose, mi fermo qua. Se para aquí. Pues si os parece, abrimos el turno de palabra. Yo tengo un par de preguntas preparadas, pero solo por si os ponéis tímidos. Yo creo que es mejor que abrirlo porque, bueno, que yo tengo oportunidad luego de preguntarle. Así que si hay... hablo sin... Sí, porque si no reverbera. Como está ahí el altavoz, no se puede, se acopla. Vale. En primer lugar, agradecer lo que haga este tipo de iniciativa, a Corina y a Mauricio por estar aquí. Bueno, yo quería basar un poco en los documentales que he visto en la plataforma Filmin, que recomiendo para quien no... Está hablando uno de los documentales es O Economía, que se inspira un poco, tiene en cuenta un libro de Mauricio que se llama La fábrica del hombre endeudado, y entonces en ese documental habla un poco sobre el crecimiento económico y la relación con la deuda. Y luego hay otro documental que se llama La guerra empieza aquí, que habla un poco sobre la fabricación de armamento en el Estado español o España, que convertiráis. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer aquí en España, lo digo por no vincularlo exclusivamente con la derecha extrema o con la extrema derecha, el tema de la guerra y el capital. Porque en España ha sido, se fabrica armamento en varios puntos del Estado. Desde España se ha animado al envío de armas a Ucrania para detener la guerra, para parar la guerra, ahora importando para la paz, enviar armamento. Y, por ejemplo, en el norte, pues... el gobierno que tiene en Euskadi, del Partido Nacionalista Vasco, que no está vinculado, que se sepa, a la extrema derecha. Entonces, la pregunta es, si entendemos que el Estado es responsable y el capital es responsable de las guerras, y entendemos que las empresas de armamento son responsables de la guerra, si también las personas trabajadoras de esas empresas, porque por lo visto, o sea, el gobierno municipal también en Cádiz, en la ciudad del sur, entendía que era una cosa, era lo importante hacer prevalecer, digamos, el empleo de esos trabajadores, el dinero que podíamos tener. Entonces, si son responsables también los trabajadores de esas empresas de armamento, incluso si toda la sociedad en su conjunto somos responsables de aceptar ese dinero maldito que proviene de la fabricación de armamento. Entonces, si son los trabajadores y la sociedad en su conjunto corresponsables de las guerras, ¿y qué papel puede tener el Vaticano, la Iglesia Católica, en su máxima de no matarás para detener las guerras? Esa es la pregunta. Sí, ho capito, più o meno ho capito. Okay. Facciamo, rispondo subito o facciamo... podemos coger... Sí, cogemos si queréis alguna pregunta más y luego vamos. Yo quería preguntar, voy a explicar un poquito más lo de... Debe hablar más fuerte, si no lo capisco. Más fuerte. El documental que desplazaba la ley franco-alemán para darle preponderancia a las colonias y a los Estados Bálticos. ¿Podría explicar un poco más esto? ¿Puedo explicar un poco más cómo está punida nuestra tarea? Sí, sí. Las franco tedesco de la Polonia. Sí. Hola, soy Francesco de Italia. Si voy a hacer la pregunta en italiano, me puede preguntarme solo si no hace falta. Y, bueno, gracias por. La domanda, puoi proseguire su questo, perché è breve e semplice. Allora, grazie per l'analisi, cogliere una serie di punti fondamentali adesso. Davanti a questo, però, quali possono essere le parole d'ordine, gli obiettivi, le pratiche dei movimenti sociali, dei territori in lotta. Questo è la pregunta, è praticamente in pretesta l'analisi che Maurizio non ha detto. Volevo chiederlo dos papeles de las luchas del movimiento social, las palabras que no podemos dar y frente a esta situación de guerra. Rispondo a queste tre? Sì. Bene. Luego cogemos otro turno. Com'è? Luego cogemos otro turno. Sì, va bene. Allora, sulla prima questione, se la responsabilità dei lavoratori. Della società. E della società. E del Vaticano. Sì, il Vaticano dopo, diciamo il Vaticano secondo. Vaticano secondo. Allora, è un problema che non è emerso adesso, il capitalismo ce l'ha dentro questo problema. Che non è un problema che è chiamato ora, sino che è una cosa intrinseca al capitalismo. Come ho detto, l'industria dell'armamento è un elemento strutturale dell'economia. Que la industria del armamento es un elemento intrínseco a la economía. No sé si vos conocete, ci sono degli economisti che hanno lavorato dopo Rosa Luxemburg in maniera molto precisa su questo rapporto tra accumulazione del capitale, sviluppo del capitale e industria bellica. Que han habido economistas después incluso de Rosa Luxemburg que han analizado esta relación que hay entre la produzione militare, no? E la accumulazione di capitale. Effettivamente i sindacati e la sinistra considerano la produzione di armamenti come un'industria qualsiasi. Effettivamente i sindacati e i movimenti di izquierda pensano che questo settore, il settore dell'industria armamentistica, è un altro settore più. Non penso che siano responsabili gli operai che ci lavorano dentro anche se producono armi. Que él no cree que sean responsables propiamente los trabajadores que están empleados en esas industrias. Como dicevi prima, es piuttosto la sociedad en su insieme que ha esta responsabilidad. Que como decía antes, es más la sociedad quien es responsable de que esto ocurra. Sarebbe troppo facile scaricare in quelli che sono costretti a lavorare questa responsabilità. Que sería un poco injusto descargar toda esta responsabilidad en aquellos que tienen que trabajar. La responsabilidad es que nuestra, Incluso nuestra responsabilidad. Cioè, finché non si mette en discusión la natura bélica del capitalismo, es difícil. Que mientras que no se ponga en duda la naturaleza bélica del capitalismo, esto no se puede cambiar. Como he dicho, guerre mondiali ogni 25 anni, le grandi guerre mondiali ogni 25 anni è un grosso problema. Claro, guerra mondiale cada 25 anni è un gran problema. E non si fermerà con questa. E non va a pararsi con questa. Il Vaticano, soprattutto in Italia dove è molto forte. Il Vaticano, che in Italia è abbastanza forte. Di solito organizza delle manifestazioni contro la guerra. Che suele organizzare manifestazioni contro la guerra, però non sono manifestazioni nel senso di mobilizzazione. Sì, mobilizzazione. Sì, manifestazioni. Questa volta praticamente non c'è riuscito. Questa volta non ha potuto. E qui c'è un grosso problema di capire perché nell'Occidente non ci sono, a livello anche mondiale, non ci sono state mobilizzazioni come nel 2003, l'epoca della guerra in Iraq. Que no han logrado entender, no han logrado analizar el por qué no ocurre igual que cuando en el 2003 con la guerra de Irak hubo movilizaciones, porque esta vez no ha podido haber este movimiento. Se vi ricordate, en 2003 c'erano milioni di persone che sono scesi in piazza in tutto il mondo. Si os acordáis, en el 2003 millones de personas salieron a las plazas en el mundo entero para manifestarse contra esta guerra. Un giornale americano, New York Times, aveva definito la quinta potenza mondiale questa mobilizzazione. Che incluso New York Times definì come la quinta potenza mondiale questa mobilizzazione. Vent'anni dopo non c'è più niente. 20 anni dopo non è assolutamente nada. Quindi bisognerebbe porsi il problema del perché non c'è questa reazione. Sì, habría que problematizar perché non esiste questa reazione. Questo. Allora, per quanto riguarda l'Europa, come dire, gli Stati Uniti hanno avuto sempre un problema con i loro alleati. Stati Uniti sempre hanno un problema con i suoi alleati. Prima con perché con Giappone e l'Europa, prima con Giappone perché erano dei concorrenti economici. Primero con Japón porque eran competidores. E fondamentalmente gli Stati Uniti sono riusciti a neutralizzare il Giappone mettendo la loro economia in una stagnazione continua. Che Stati Uniti consiglio estancar la economia costante di Giappone, mantenere, cioè, someterla a una stagnazione, un estancamento costante della sua economia. Stati Uniti non hanno mai apprezzato l'euro. Che a Stati Uniti nunca era gustato l'euro. Perché l'euro era una moneta di riserva che era concorrente con il dollaro. Perché l'euro era una moneta di riserva che competiva con il dollaro. Ma l'Europa non è mai riuscita a trasformare questa forza economica in forza politica. Però l'Europa non ha conseguito trasformare questa forza economica in questa forza politica del dollaro. Sì, no, dell'euro. Ah, dell'euro. E gli Stati Uniti sono riusciti finalmente, attraverso questa guerra, a prendere il controllo completo sull'Europa. E attraverso questa guerra hanno conseguito tomare il controllo assoluto della questa guerra. Hanno completamente allineato l'Europa sulle posizioni americane. Hanno allineato plenamente la posizione europea con la nordamericana. E quindi hanno lavorato da tempo, Brexit da una parte, sviluppo dei paesi dell'est, per trovare la maniera di arrivare a questa conclusione. Che lo hanno conseguito attraverso primero il Brexit e luego potenziando i paesi dell'est per destabilizzare l'Unione Europea. Quindi, secondo me era un obiettivo di lunga data questo di controllare l'Europa completamente. Che, secondo lui, era un obiettivo a largo plazo lo di controllare l'Unione Europea. E questa guerra è stata l'occasione ideale. E questa guerra è stata un'occasione ideale. Era l'ultima possibilità per l'Europa per avere un punto di vista autonomo e indipendente degli Stati Uniti. Era l'ultima opportunità di avere un punto di vista indipendente degli Stati Uniti. E invece non ha avuto né la forza né l'intelligenza politica di fare questo passo. E sin embargo non ha tenuto né la forza politica per poter opponersi a questo sforzo di Stati Uniti. Anzi, i paesi europei tipo l'Italia, la Francia, la Germania sono scatenati su questa guerra, sono scatenati. Incluso adesso Italia, Francia e alcuni paesi dell'Unione Europea han promovido este alineamiento con Estados Unidos. Ed è una guerra che va contro gli interessi dell'Italia, della Francia, della Spagna. Però, per non dire che, sin embargo, questo va in contra dei interessi dell'Italia, della Francia e della Spagna, questo alineamento con Estados Unidos. E l'unica maniera di spiegarlo è che hanno paura veramente che l'Occidente sia messo in difficoltà dal Sud. Pero la única forma de explicarlo es que estos países tienen miedo de que caiga Occidente debido al poder del sur, ¿no? Al poder de los países del sur. Secondo me l'Europa aveva una possibilità, di non allineandosi con gli americani, aveva delle possibilità di sviluppare politiche, soprattutto col sud, col Mediterraneo, con l'Africa del Nord, eccetera. Poteva presentare delle alternative politiche. Y sin embargo la Europa podía desarrollar líneas independientes de Estados Unidos y que sirvieran como para articular con otros países del sur, ¿no? Como con África del Norte, ¿no? O con países del Mediterráneo. E questo è finito per sempre. Questo è acabato, questa linea non ha lavorato. Per cui gli Stati Uniti, nella guerra contro la Cina, hanno allineato il Giappone e l'Europa completamente nelle loro posizioni. Sin embargo, con gli Stati Uniti ha allineato a tutti questi paesi, incluso a Giappone, in questa guerra contro la Cina. Comunque stanno preparando lo scontro vero, quello con la Cina. Por lo tanto, dice que están preparando el conflicto abierto contra China. Hanno imposto, per esempio, le società europee, ci sono molte società europee che non possono più commerciare con la Cina. De hecho, hay muchas empresas europeas que ya no pueden comercializar o mantener intercambios económicos con China. Soprattutto le imprese tecnologiche a un certo livello. Sobre todo las tecnológicas. Sono bloccate dagli Stati Uniti. Han sido bloqueadas por Estados Unidos. ¿No? Hay una imposición de Estados Unidos a no comercializar con China. Quindi è per questo che dico che l'Europa è la prima grande sconfitta di questa guerra. Es por eso por lo que dice que Europa es la primera dañada por esta guerra. Voilà. La terza questione è quali possono essere. Questa è la domanda più difficile. Quali possono essere. Questa è la domanda più difficile. Perché non ci sono movimenti politici e sociali che si sono sviluppati? Perché veramente non si hanno sviluppato movimenti sociali. Come nel 2003, come dicevo prima. Come nel 2003. Non c'è stato né un movimento pacifista come negli anni 70 in Germania. No ha habido siquiera ningún movimiento pacifista como en los años 70 en Alemania. Allora, se digo yo qualcosa, lo digo yo, pero no conto niente. Que por decir, puedo decir lo que sea, pero no cuenta nada. C'è un problema immediato con la guerra, ma c'è un problema più fondamentale, è la capacità di costruire dei rapporti di forza. Hay un problema básico con la guerra, pero hay otro problema más importante aún, que es la relación de fuerzas, ¿no? Ricostruire un punto di vista di classe, se no non contiamo niente. Ricostruire un punto di vista di classe. E su questo costruire delle dinamiche politiche. E costruire dinamiche politiche a partire da lì. Poi sulla guerra ci sono. Evidentemente siamo per la pace. Evidentemente stiamo per la pace. Sì, però io non lo dico, però non conto assolutamente niente. Que yo lo puedo decir, pero es que no cuenta nada. Cogemos un segundo turno y ya. Adelante. Sí, sobre el tema de los medios de comunicación y el tema, aunque siempre ha habido el control de los medios, pero esa concentración de poder se ha ido también ampliando cada vez más, de manera que lo que es el pensamiento único está prácticamente casi impuesto por la monarquía y un pensamiento único, no ha habido ese análisis, lo que ha habido un silencio total y lo sigue habiendo. Entonces, el papel de la concentración de los medios de comunicación me parece que es fundamental. Antes había un control, pero había un poco más de diversidad de alternativas críticas, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna alternativa crítica. Tampoco dentro del movimiento pacifista ha habido ninguna alternativa crítica, porque todo lo que dice la tele y todo lo que dicen los medios es lo que se ha ido repitiendo. Eso es lo que se ha ido repitiendo, a diferencia del 2003 con la guerra de Irak. O sea, que el movimiento pacifista ya se rompió con la guerra de Libia, se rompió con la guerra de Siria y viene roto desde hace ya tiempo. Porque ahí había había dos vías, como el tema de Libia, por ejemplo, que fue importante. El movimiento pacifista pues apoyó, ciertos sectores del movimiento pacifista apoyaron la intervención en Libia y después apoyaron también la intervención en Siria. Eso por una parte, ¿no? Lo que es el pensamiento único y el control de los medios de comunicación. Y por otra parte, el tema también de como dentro de esta balsa que estamos aquí en Occidente. ¿Dentro de esta? ¿De esta? Balsa. ¿Balsa qué es? De esta burbuja. Que es el tema de los movimientos migratorios y el tema de la presión de los refugiados, ¿no? El tema de la presión de los refugiados, que de alguna manera es lo que sí, que todo lo que nos hace un poco mover esa balsa va a venir de África o va a venir de Oriente, ¿no? Que eso es el tema de los refugiados, como la industria armamentística, como el militarismo está implicado también en el control de los refugiados. ¿Tiene el securitarismo? Sí, yo como Francesco, y pasamos en italiano, pasamos en español, se dice en italiano, ¿qué le está diciendo? Que todo questo discorso pesimista, abbastanza pesimista, perché la mia sembra... Parla più forte, può? Sì, sembra che ci sia una fine in questo discorso, io sono d'accordo con lei, però diciamo che dopo tanti anni qualcosa si sarà rimasto, diciamo che vabbè, siamo parlati del 1914, alla prima e seconda guerra mondiale, finora qualcosa ci sarà fatto, nel senso, vabbè, capisco il pessimismo, ma dobbiamo anche aggiungere qualcosa di pessimismo. Cioè, diciamo, non lo so, io una persona giovane, però mi considero, credo che magari devo guardare il futuro anche aggiungendo qualcosa come condivido quello che diceva Francesco, cioè una indicazione, qualcosa da fare a livello sociale, perché possiamo dire qualche tutto il fatto. Io che la comprendo che la pregunta che dà è un'analisi più pessimista, però credo che dovremmo a lo mejor también arrojare un poco di luce, estoy de acuerdo con todo lo che dice, però che simplemente decir che del 1914, la prima guerra mondiale hasta la actualidad, non abbiamo cambiato nada, todos los movimientos fascistas no han hecho que nada quede en la que la sociedad, creo que no es alentador, creo que tenemos que por lo menos tener un poco de optimismo de cara también a alguna cosa que cambiará. Va bene. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que lo que ha conseguido el capitalismo es adormecernos cada vez más. Yo tengo un pronóstico muy negativo de lo que me rodea y creo que la sociedad está cada vez más adormecida, más pasiva y más mirándose cada uno los libros. A lo mejor tengo un pronóstico muy negativo, pero creo que no es causa, es consecuencia de la sociedad individualista en la que vivimos. El que la gente no se manifieste con la paz, como por ejemplo usted ha dicho en la guerra de Irak, yo creo que es más consecuencia de la del sistema, que el capitalismo es un monstruo que nos está devorando de una manera u otra. Y creo que estamos en guerra de una manera indirecta en la competitividad que nos lleva a este sistema. Es mi humilde opinión. ¿Alguna otra intervención? Luego vamos a cerrar el turno de palabras, lo digo por si... digo por la hora, vamos, básicamente. Bueno, añado yo solo una cosa, pues reformulando un poco lo que había dicho ella, poniéndolo en relación. Panda tu piano. Sí, en una de las charlas que has dado en España, sí, mencionabas que estás empezando a pensar en un libro o a escribirlo. Sí, en una de las charlas él mencionaba que en una de las charlas aquí en España que estaba empezando a escribir un libro o a pensarlo. Que quizá conecta con algo de eso, pero por reformular la pregunta conectándolo con eso, es sobre el consumo, sobre la subjetividad consumista, me parece que mencionabas eso. Y yo me preguntaba qué relación tiene la guerra y el consumo en esa concepción que estás haciendo, o cómo continúa esa propuesta, el planteamiento de este libro también. Y si ahí tenía algo que ver también... o quizá de lo de la lucha, la reformulación del concepto de clase, que entiendo que es necesaria para que cualquier concepto de clase sea funcional hoy día, teniendo en cuenta, bueno, que entiendo que ahí en clase estaría la clase de las mujeres, la clase colonizada, la clase una clase en un sentido que no es el convencional. Sì. Però restiamo fino a domani mattina. Allora, su questa cosa dei media, diciamo così che il primo settore militarizzato sono stati i media. Il primo settore militarizzato hanno sido los medios de comunicación. In Europa sicuro, in Italia sono completamente militarizzati. Claro. Tanto in Europa come in Italia stanno pienamente militarizzati. Però bisogna dire che c'è una differenza, una grande differenza tra il nord e il sud del mondo. C'è una grande differenza tra il nord e il sud del mondo. Io sono stato in Argentina in novembre e poi sono tornato adesso in maggio per presentare i due libri, i due libri che ho scritto dopo Guerra, Rivoluzione e Imperialismo del Dollaro. Che è stato in Argentina a novembre e ora otra vez in maggio presentando i due libri che ha scritto, Guerra o Rivoluzione e Imperialismo del Dollaro. E sono stato intervistato da tutti i media. Che ha sido intervistato por todos los medios. Sono andato alla televisione pubblica a parlare dell'imperialismo del dollaro. Che hai incluso la televisione pubblica a parlare dell'imperialismo del dollaro? il presentatore mi intervistava col libro così. Che l'intervistatore l'intervistava con il libro così, no? Insegnandolo. In Argentina, no? Sì. Cose inconcepibili qui da noi. Questo è inconcepibile nel nostro tempo, ma qui. Impossibile. Cioè c'è una sensibilità completamente differente tra nord e sud su questa storia. Hay una sensibilidad completamente diferente entre nord e sud in questa storia. Invece c'è un aneddoto interessante sul titolo del libro, del mio ultimo libro. Sì, che hay un análisis interessante intorno al titolo del suo ultimo libro. Nel sud, in Argentina hanno scelto come titolo l'imperialismo del dollaro, ed è il titolo. Que en Argentina han elegido el título tal cual, ¿no? El imperialismo del dólar. En Italia ha sido publicado el libro, se llama Guerra y Moneda, no se llama imperialismo. En Italia ha sido publicado, pero le han cambiado el título y se llama Guerra y Moneda. Le han cambiado, no le gusta el título. C'è veramente una manera diferente di vedere il mondo dal sud e dal nord. Hay una manera completamente diferente del mundo, del sud y del nord. E io ho avuto dei dibattiti molto. Sono stato invitato, per esempio, da un'istituzione, il capo di questa istituzione è un peronista. Che ha sido invitato in maggio e quando stava in Argentina a fare un debate e in una istituzione cuyo jefe, cuyo direttivo era un peronista. Peronista di sinistra. Peronista di izquierda. E ho fatto una riunione con gli ex ministri di Cristina Kirchner. Que ha hecho incluso una reunión con ex ministros de Cristina Kirchner. Discutere de la guerra, la Europa, etcétera, etcétera. Discutiendo de la guerra, Europa, etcétera. In Europa è impossibile, inimmaginabile una cosa del genere. In Europa eso sería imposible. Perché lo spazio mediatico e politico è completamente chiuso. Porque el espacio mediático y político está totalmente cerrado. Non so, sinceramente non saprei come aprirlo. Y él no sabría cómo abrirlo. Mi libro en Italia no tiene que estar ni un artículo. Que de su libro no han sacado ni siquiera un artículo. Y en Argentina no se. Debo refutar los medios porque no se lo hacía más. Y sin embargo, en Argentina ha tenido que rechazar incluso a medios porque no conseguía hacerlo. Quindi c'è una vera distinzione tra il nord e il sud del mondo sulla questione della guerra. Entonces está claro que hay una distinción muy clara entre el norte y el sur en la cuestión de la guerra. Debemos saber que el occidente es minoritario, el occidente en el mundo es minoritario. Y hay que también considerar que occidente es minoritario en el mundo. I media parlano molto, però pensano così solo in occidente, nel resto del mondo non pensano così. Que hay que considerar que los medios en Occidente pesan solamente en Occidente, no pesan en el mundo entero, no tienen peso en el mundo entero. Quindi bisogna ogni volta che si pensa a questo problema, bisogna pensarlo a livello mondiale. Entonces cada vez que pensamos este problema, el problema de los medios, hay que pensarlo a nivel mundial. Effettivamente, essendo qui, si ha l'impressione che non ci sia nient'altro al mondo. Evidentemente estando aquí parece que no hay alternativa en el mundo, ¿no? Pero las alternativas ci sono, vengono un po' dal sud, como diceva Grecia. Pero sin embargo las alternativas las hay y vienen del sur. Probabilmente. Probablemente. Qui è molto bloccata la situazione, Sí, aquí está bloqueada la situación. Sul pesimismo. Sì. No, non è, io non penso di essere pessimista, penso di essere realista, che è un po' differente. Non è pessimista, è realista. Cioè nel senso che bisogna fare un'analisi realista di quello che c'è. Dobbiamo fare un'analisi realista di quello che hai. Non ci sono grandi realtà adesso, non si vedono realtà politiche e sociali. No hay realidades políticas y sociales ahora, no se ven. Pero la guerra introduce una temporalidad completamente diferente de la que conocíamos. Pero la guerra introduce una temporalidad totalmente diferente a la que conocíamos antes. Una temporalidad imprevedibile. Una temporalidad imprevisible. Que puede tener delle accelerazioni fantastiche. Que puede tener una aceleración impresionante. Allora, dico qualcosa di positivo. Ma è vero, positivo. Quando è scoppiata la prima guerra mondiale, praticamente la sinistra è andata tutta verso il nazionalismo. Quando nella prima guerra mondiale, praticamente tutta l'izquierda si virò hacia los nacionalismos. Tranne le piccole componenti tipo Lenin, ma molto piccole. E entre los componentes. Piccole più componenti. Excepto alcuni componenti tipo Lenin. Ma erano assolutamente minoritari. Però erano totalmente minoritari. La socialdemocrazia tedesca, che era l'organizzazione più forte, aveva votato i crediti di guerra. Incluso la socialdemocrazia alemana aveva optato per pedir crédito di guerra. E quindi la sinistra era scomparsa. Entonces la izquierda había desaparecido. Perché si era allineata con le posizioni nazionaliste. Perché si era allineata con le posizioni nazionaliste. Però tre anni dopo Lenin ha fatto la rivoluzione. Però tre anni dopo Lenin ha fatto la rivoluzione. Allora, è evidente che non è la stessa situazione, però la guerra introduce una dinamica completamente differente. Ovviamente non è la stessa situazione, però la guerra introduce una dinamica completamente differente. Un'altra temporalità. Otra temporalità. Quindi, punto di domanda, bisogna essere pronti. Hay que estar preparados. Quindi non sono pessimista. Che non è pessimista. L'individualismo. Sì, nell'individualismo c'è. Sì, è anche il discorso che faceva lei sul consumo, che ha fatto lei. E incluso il discorso che ha fatto ella, parlando dell'individualismo, incluso il discorso che ha fatto sul consumo ella. Allora, il discorso è un po'. Sarebbe troppo un po' vasto. Che il discorso va a essere un po' vasto, un po' allo brutto. Diciamo così, molto semplicemente, è che il consenso nelle società occidentali. Il consenso nella società occidentale passa, secondo me, passa in gran parte attraverso il consumo. Passa attraverso il consumo, secondo me. Gli Stati Uniti avevano, dopo la caduta del muro di Berlino, si erano proposti di esportare la democrazia. Después della caída del muro di Berlino, gli Stati Uniti si è proposto di esportare la democrazia. Ma l'unica vera democrazia che hanno esportato è la democrazia del benessere in Europa e in Giappone. Il resto del mondo non hanno mai esportato niente. Però l'unico che hanno conseguito esportare, o che hanno lograto esportare e che chiedono esportare, è il benestare in Occidente e in suo paese. Hanno esportato il modello del consumo. Che hanno esportato il modello del consumo. Che il modello del consumo è un modello molto invasivo della soggettività. È un modello molto invasivo dal punto di vista della soggettività. Perché se ci pensate, qualsiasi gesto, qualsiasi comportamento, a qualsiasi gesto, a qualsiasi comportamento, a qualsiasi desiderio corrisponde praticamente una merce. Come se lo pensiamo, qualsiasi deseo, qualsiasi comportamento, qualsiasi attività, se corrisponde con una mercanzia. Però questo non giustifica che non ci siano le reazioni. Questo non giustifica che non esistano le reazioni. Questa effettivamente ha sostituito la democrazia istituzionale. Questo effettivamente ha sostituito la democrazia istituzionale. Perché effettivamente la libertà e l'uguaglianza è libertà e l'uguaglianza delle merci, del consumo. Perché effettivamente la libertà e l'uguaglianza è del consumo. E quindi la legittimità passa attraverso questi attraverso il carrello della spesa. Adesso come cazzo si dice carrello della spesa, non si sa. Il carrello della compra. Ah sì. Perché l'elemento di legittimità passa attraverso il carrello della compra. Però questo non giustifica niente. Questo non giustifica nada. Questa è una forma di organizzazione del potere che viviamo da anni. Questa è una forma di organizzazione del potere che viviamo da anni. Però abbiamo visto anche delle rotture. Però abbiamo visto incluso rotture. E quindi il problema è capire perché non c'è stata rottura politica con questa guerra. Però lo che hay che fare è intentare intendere perché non ha esistito una rottura politica con questa guerra. Perché non ha succedito questa rottura. Esatto. Mi fiero non guastano col consumo, ci sono moltissimi altri che andiamo troppo distanti. Che se va a parare qui, ya sta. Muy bien. Para otro día. Fermo qua. La classe è troppo complicata. Dopo nella cena. Se la classe è intorno a una cagna, potremmo parlare un po'. Perfetto. Se vuoi. Muy bien, pues. Gracias.